alle 10? Non avevo dubbi che continuasse un canale di morti. Ciao a tutti. Adesso ci sarebbe una bella per me. Eia, ciao Gianfranco, dopo tanto. Ero convinto che avrebbe risposto Natalino. Ieri eravamo qui 10 minuti e io sono impegnato con dottori e dottorini. C'ho delle cose da risolvere agli occhi e non solo agli occhi. Vediamo se all'ascolto. Natalino, ci sei? No, oggi no. Vabbè, qua è tabula rasa, Claudio c'ha da fare, è impegnato per la casa, me l'ha detto ieri, quindi. Ma anche sul 23 langue un po', non tutti i giorni entrano sempre in questo PMR. Ah, questo mi ha detto il giorno che con Pomponi abbiamo diffuso l'idea del PMR. Infatti. Vado in felice idea, ma non c'è nessuno neanche lì. Quindi stai facendo controlli, eccetera. Ma alla testa niente, no? Alla testa? In un certo senso sì. C'ho un angioma, sai quei nei rossi, no? Ce l'ho sopra l'orecchio lì, sulla pelle, no? È un po' cambiato. Si è infiammato, non lo so, per cause naturali e bisogna toglierlo. All'interno della testa no, non ancora, ma penso che non mancherà molto tempo. Sì, poi qualche problema a risolvere gli occhi, boh, non ho capito. Questi medici poi dicono, non dicono, va bene, già lo vedranno loro. Devo fare una risonanza dopo Pasqua, a Ottieri, devo sempre fare la spola a Ottieri. Ma... E poi non so come si risolverà, se tramite operazione, oppure terapia laser, oppure medicine, non lo so. Non dicono niente questi medici, fino all'ultimo non dicono niente. Dicono, non dicono. Ah, vabbè. Neo, questa cosa che sia, non l'hai mai fatta. Un neo lo possono fare in crioterapia, ti li stesso in ambulatorio, ti spruzzano dallo sottoliquido che congela praticamente il neo e lo bruciano. Non senti niente, è un po' di freddo e dalla parte trattata e basta, non c'è dolore, non c'è niente. Una cretinata. Beh no, perché quello un po' si era, aveva trasudato, aveva molto, ha messo siero, si era infiammato e si è ingrandito. Lì bisogna tagliare col bisturi, tagliare. E in più bisogna fare la biopsia, sperare che tutto vada bene, capito? Prima di tagliare, capito? Non è solo questione di un neo, è un po' cambiato, capito? Che è aumentato le dimensioni, così. E si veda, se no male che vada già mi leggete sul giornale, dai. Sui, così poco già, non c'è niente. Mi ribaffano, non trappano, con punta rossa. In 2 minuti è fatto, lo stesso. Fa un bel buco. Tanto già non c'è pericolo per la testa, perché dentro tanto non c'è niente, quindi alla limite magari entra qualche moscerino e così forse mette un po' di giudizio. Sì, al massimo esce un po' di segatura dal foro. Quindi niente di importante. E vabbè, perché prima fate il danno e poi ve ne ridete, per quello che riguarda la storia della felice del PMS. Io già l'ho abbandonato, abbiamo abbandonato anche la digitale lì, addirittura Pomponio mi ha, dice tanto non l'uso mai, mi ha riregalato la radio quella radio digitale è analogica che stavamo usando, quel portatile. Quindi ne ho due qua adesso, da quando me l'ha data ferma nell'armadio, batteria caricata, e lì rimarrà. O si vende, ma alla fine chi è che va a spendere di più per un... tanto sì, non è ascoltato dai più, ma dalle forze dei cosi viene ascoltato, capito? Dagli organi di controllo. Vabbè. È così. Ma hai pranzato o no? Devi pranzare? Sì, devo pranzare alle 8, oggi aspetto alle 8 per pranzare, perché ci siamo presi il tè alle 6, anziché alle 5, ho spostato, però non ceno dopo, faccio un pasto unico più abbondante alle 8 e poi basta, al limite un bicchiere di latte, così dai. Ti volevo dire, no, poi la gente se ha questo tipo di radio, tocca, fa, capito, attacca il cavetto, comincia a toccare tutto e li rovina, li distrugge. Li distrugge, quelli vanno lasciati così. E basta. Sono già programmati dal venditore, eccetera. Senza esperienza non bisogna toccare nulla. Io c'ho il cavetto, c'ho il programma, ma non ho toccato niente perché non conosco la sezione digitale, capito? E vabbè, poi decido se smerciarli o tenerli, boh. O regalarli, tanto ormai non ne trovo nessuno. Anche. Se io ti dico Papa Delta Whisky, hai già capito il modello? Roba da 13 sicuramente. Papa Delta Whisky PDW. Io prima ho detto che era roba bibanda, tutta roba. No, è molto più semplice, è molto anche più nazionale come produzione. Cioè produzione cinese, ma è venduta da una ditta. Da una ditta italiana, una ditta un po' così, dai, una delle più piccole. Ma no, stavo cercando per vedere il modello, ma sicuramente una sottomarca di una sottomarca di un'altra sottomarca e di un'altra sottomarca ancora. Io dai, ti facilito le cose, Polmar, c'è solo un modello di quel tipo. Ah, beh, non so da dirlo, non è un segreto, ma come la radio, porca miseria, non so mia, mi è scappato la sera, era in DMR, sì. No, o di TDMR, poi non me lo ricordo più. Allora, sì. Ah, eccola qua, ho fatto 20 pezzi 5 euro. No, non è quello. Allora, quella radio in realtà Polmar non produce niente. Polmar compra dalla Cina. Mi pare che l'originale radio cinese era chiamata Luiton 9909 alias aspetta, alias Nanfone 9909 alias tutte uguali, capito? Se tu cerchi Nanfone 9909 oppure Luiton 9909 ti compare la stessa radio. Lui compra dalla Cina, Polmar, e poi mette il marchio, fa mettere il marchio, ne compra, che ne so, 1000 pezzi, 2000 pezzi. La Polmar non produce niente. E vabbè, Poi molte cose ho notato scompaiono in poco tempo dal sito Polmar, tipo il veicolare Polmar Shark 2, che era il coso navale, come si chiama, il ricetrasmettitore nautico, dai, non portatile però. C'è roba che appare e scompare in pochi anni, non si sa perché. O è roba non omologata, o roba che non va bene, che ha difetti, boh. Che la roba buona di solito la tengono in catalogo. Sì. Allora, mi confermo, qua ce n'è una, che è sempre di PMR. Ed è, per dirti, non ha tastiera, c'ha solo il corpo di una radio senza visore, senza, sì, niente, tipo radio una volta, dai. Sì, sì, è quella, è proprio di quelle radio a prova di guardia giurata, c'ha il volume e i canali, boh, non c'è niente da toccare, niente da sbagliare, display da interpretare. Poi ci sarebbe la 9908. Allora ti spiego, la 9909 non viene più venduta proprio nemmeno dai cinesi, mi pare, se non in grossi quantitativi. Esiste la, proprio cercala, la 9908, che è, diciamo, la stessa radio ma con tastiera e display. Cerca 9909, o Nanfone, o Luiton, o quello che è. Sì, sì, no, ma l'ho già vista, cosa si tratta. C'è un break avanti, buonasera. Buonasera, Natali, Natali. Non ho riconosciuto Natali, cos'è stai via? Guarda chi c'è Marco. Esatto, ho detto buonasera. Capito? Non mi avete riconosciuto, è come mai? Perché hai una voce funerea, un po' troppo seria, triste. E allegro non posso essere, fino al treno si canta a messa, sono brindi non li dai di là, messa non mi canta. Lo so, ma anche noi fine mese, fine soldi, ma ci abbiamo un negozio alimentare a 30 metri, compriamo e paghiamo l'uno, capito? C'ha il libretto, lui segna quello che compri, poi l'uno paghi. Certo, senza mangiare non rimaniamo. Sì, lo so. E quindi Gianfra, sì, è come hai detto tu, Delta, Papa, Romeo, no, DPMR, dai. Sì. Sì, è proprio base. Tra l'altro non è più banda, è tutto monobanda, quindi non ha niente valore quando la devi proprio tirare in testa a qualcuno. Vabbè, se c'è qualcuno interessato, prima costava 107 euro l'uno, adesso hanno alzato il prezzo, c'è un negozio che le vende, che anche le batterie di ricambio, no? Un po' tutte le cosette, gli accessori proprio di quel modello. Costava 107, adesso l'hanno aumentata, non so se 118 o 119. Comunque fa il suo, è anche analogico ovviamente, no? Fa il suo sporco lavoro e non è che, anche messa con, no, a Polo Torres lì con la carta. Logico, ma in digitale c'hai, non senti QRM, c'è una telefonata. Diciamo che con queste radio non ti rendi conto della distanza, no? Perché sai, con l'analogico, bene o male, più lontana la persona, più senti il soffio, il QRM sotto, no? Cioè senti il soffio, capito, di uno che arriva a basso, lì invece o lo senti o non lo senti. Potrebbe essere, capito, a un metro o a 20 km, non ti rendi conto delle distanze. Caro Natalino, non pensare ai soldi, fregatele, io penso alla salute ora, me ne frego di soldi. Ma io che quello che ho fatto? Sempre va a mettere la matta cicosa, ragazzi. Mill'altro, mi. Ancora vivo sei, Claudio. Io lo accendo la radio, quando sento a te la spengo, perché non sento altro che parlare di questo cazzo di PMR. No, sono rientrato adesso perché tanto sta piovendo, stavo facendo cose, no, non si può fare niente. Ciao a tutti, buonasera, ben sentiti, QRT per me, avanti Gianni. Buonasera a Toro, ciao Claudio, ciao Antonino, ciao Franco, avanti. Ciao Gianni, ben entrato. Beh, vedo che allora la ruota non è definitivamente morta del tutto, dai. E sono contento così. Guarda, c'è Natalino, Gianfranco, io che alle 7:10 vado a vedere il ben amato Bonolis e il suo programma. Chi sa che te con Bonolis, anche non te lo puoi dire. Natalino, ma che bandiere, hai trovato a pigliare? Non riesco a farne né calce né lana. Sei un vecchio di 80 anni. No, io mi coricherei a fianco a Miss Claudia, capito? Quella tettona. Eia, mamma mia. Dai, fate girare un po'. Lui ha proposto di tettona. Ieri la sera era mio successo già. No, di sera. Mi ero distratto. Claudio, beh, questa casa si vende o no? Non la vendo più la casa, me la tengo di scorta, capito? C'ho i soldi, non me ne frega niente di vendere. Oh, cioè, visto che non si vende, terminate la costruzione dell'altra e poi... Ah, così è, meglio così. Terminate la costruzione dell'altra? Sto terminando la piscina, costruzione dell'altra. Appunto, non è finita, no? È già abitabile, ma sto finendo alcune cose, capito? E poi ci vedrà, ci andrò a farmi le ferie. Ma poi tanto le spese di condominio continuano, i casini di condominio, quindi appena puoi sicuramente cambierai casa. Andrai lì che è più tranquillo, nessuno ti dice niente. E beh, e come mai sta salendo e scendendo lo Smith? Aspetta. Ho visto un piccolo... sarà il vento, No, no, no. Ci abita mia figlia e l'altra sicuramente me l'affitto. Non so, devo decidere, ma non sono cose da... che posso esprimere qua. Per il momento rimango qua, condominio, problemi. E che problemi c'è nel condominio? Caro, il condominio che ho io. Adesso hanno assunto una banda di giardinieri qua. Stamattina alle 8 stanno portando, tagliando, facendo. Questa settimana arrivano un'altra squadra per verniciare i cancelli, ringhiere, balle e poi vado. Vabbè, cacceremo anche questi soldi, non me ne frega niente. Beh, riprendete, io vado a farmi una doccia, mi sistemo e poi faccio merenda, che non c'avevo niente da mangiare su. Ci sentiamo dopo se coincide, vai già. E sai cosa mi è successo ieri? Avete ragione nella storia del cane. Che cosa, Natale? Ero seduto alla panchina dove mi siedo io, no, per riposarmi le gambe. E a quanto è possibile che si volta e si cagava solo. Solo che c'era un difetto, era canadese. Ma io già me la calco, 2 ore siamo stati parlando con la scusa del cane. Adesso il telefono a Concetta. Infatti gli affari sui figlia. No, è cosa piace. È alta 1,73, 3 cm più di me. È che lì lingua avete parlato? In che lingua? Inglese. E un po' di italiano, perché già lo parla lì un po' di italiano, capito? Però la maggior parte è inglese. Intendo la campeggio, non ho parlato, visto che è una canavese. Poi sarà fatta la battuta di bocca. Allora, canavese, io. Gianni, venduti gli amici, l'amico tuo, i cani. Ha partorito anche quella di Gianni Capri 2, se vedi che belli che sono. Quanto ne ha fatto? Non lo so, Claudio, mi ha visto. Ho chiesto, mi ha chiamato anche Gianni Capri 2 ieri per vedere se a quanto ci potevano vendere, e gli ho mandato praticamente il listino con e senza pedigree, capito? No, io e me li ho venduti subito, immediatamente, l'avevo detto, ce l'ha presi il veterinario subito, immediatamente, uno è già partito fuori, subito venduti, e ma li ho venduti a prezzo pieno, me l'ha fottenuta a me. Il maschio l'ho venduto a 1.200, la femmina l'ho venduta a 1.500. Ah, si deve regare a 200 euro l'uno, capito? E per 200 euro li puoi dare senza pedire, ma è anche poco, capito? Perché il prezzo è intorno ai 700-800 euro l'uno, quelli. Il mio collega senza pedire, vaccino senza terminare, gli dava 300, invece con pedigree terminato, con il vaccino, gli dava 700. Quello è il prezzo, già, c'ho il formulario che mi ha mandato Mario, glielo mandato, e 200 euro, 200 euro ho detto non li dare, massimo 300-350 senza pedigree. Ecco, per i grilli dai dalle 750 agli 800, 700 sei un amico, ma il valore è quello, capito? Non è che c'è sacrificio, li hai fatti grandi, li hai fatti, cioè, cerca di recuperare qualche soldo. Tanto che lo diceva il figlio, e vabbè. No, vabbè, a me ne ha fatto 4, quindi 2 a me e 2 a lui. Lui ce li ha tenuti perché sta facendo l'allevamento, lui usci, mentre la femmina. Mentre io erano già prontati da quando era incinta la moglie di Filippo, e poi rilasciato va. Manco più sai che si sta facendo, Marco. Dai, riprendi Gianfranco, c'è anche lui in rotta. Dai. Sì, riprendo, vi saluto e rimango all'ascolto che devo fare un'altra cosa. Ciao Gianni, ben ascoltato troppo tanto, ciao Claudio e ciao Natalino, ciao Marco. Riprendete pure, io mi sto allontanando. Sì, ciao Gianfranco, andiamo là, sono felice l'ascoltatore. Avanti, Claudio. Via. Ciao Gianfra, noi ce la siamo la bagna staccato perché c'è un po' di giorni che siamo su, ma sono attaccato per lasciare un po', mi faccio la luce. Ciao Gianfra, le prossime. Capito, Natali? Chissà banchina, devi stare attento tu, stai attento alla banchina. Sì, ma non è la prima volta che ci sei. È successo altre volte pure. La carteggia americana, sì. Italiana cazzo trubatono, veramente. Guarda, io non ce ne ho io qua, ma fottuto da me. Io ogni volta sono su dall'altra parte per non fare molte, per non dire dove e quando e perché, non lo sapete. E che Filippo è sciolto e sta quindi girando per il giardino eccetera, e si avvicina al cancello, perché lui siccome c'è un bel pascolo di ragazze, anche ragazzi, ma soprattutto molte ragazze che salgono su quella strada lì per a correre, no? A fare le corsette, e ce ne sono anche belline, e quindi quando Filippo è lì nel deve passare, si avvicina al cancello, capito? Allora si avvicina anche il padrone, giustamente, e sto iniziando a prendere le misure. E fai vediamo se, insomma, se vogliono entrare a rasare l'erba, ben venga, se no già sto piantando il prezzemolo. Momenti si incinami, cioè che andiamo. Allora, io non sto facendo niente, io ho detto che stavo solo parlando. Io non sono come te che mi chiamo Gianni in casa, capito? Io sono una persona figlia. Ma perché scusate, quando uno cosa c'entra? Perché cos'è? È proibito fare due chiacchiere con le persone che si avvicinano al cane o ti salutano o fai amicizia. Cosa c'entra? Io lì sto facendo amicizia con tutti eppure sono sposato. O perché uno solo scappa lo deve essere. C'entra niente quello. Ma trattare al suo posto per fare la persona sposata, se uno è sposato, se uno è scappolo che ha la voglia di rimettersi in gioco, come Gianni, perché non lo può fare, e che cosa c'è di male? Avesse fatto, comprate un cane invece del gatto, io non ne ho, se no glielo avverato, un cane a Marco, almeno qualcuno se lo porta via, ce ne sia a mezzo alle balle. No, guarda, il cane è una rottura di coglioni per me. Sono belli ma impegnativi. Preferisco il gatto, che almeno se ne sta per i cavoli suoi. Anche un padrone, Marco. Beh, quello è vero. Se vi dico a che ora mi sono alzato oggi. Dammi da mia caffè, via vai. Io sono in ferie, mi sono alzato oggi. No, io mi sto alzando tutti i giorni alle 9, puntuale. Ma ovviamente sono a Piazza dei Segni, faccio colazione, 10:15 porto il cane e via. E poi me ne vado. Ce ne andiamo dall'altra parte. Sto di un bene allucinante. Natalì, si comincia a zanni vutti, dobbiamo rudrette e docca la missione, usci. E allora, che piccina, ma ti devi immaginare che fregatura, io sono in picca, barata. E infatti, lo facciamo noi. Perché lo so che stavamo parlando, ho detto Roger devo andare alle poste, ho detto io vado a magari mi passo prima in banca, entro un po' di soldi e poi vado. No, dice mica l'una è festa, la facciate la danno il 3, la mazza che te ne varia che. Così purtroppo la danno il 3. Comunque il 7 riapre il campo. Il tribunale va bene. Oh, riapre? È meglio così, dai. Almeno c'è un po' di svago, qualcosa da fare. Kappa kappa. Oh, iaia. Avanti Gianni, hai visto, stava piovigginando, è abbassato anche il vento, e adesso piove. Oggi, cioè stanotte, e domani buio. Vai, no, a Malaga. E vabbè, ma no, domani sera ci andiamo là e rientriamo martedì mattina. È andato pioggia. No, vabbè, ce ne ho intanto terrelato. Un salone da 40 metri uguale. Siamo tutti con la speranza che insomma Pasqua e Pasquetta faccia bello. Vediamo un po'. Quindi si arrostisce, si mangia, si beve, manco gioca Rugani e via. E qua ho la maggior parte della roba l'ho già portata là. Ho già visto dove mettere la mantova. Non so se togliere questa o metterla nuova, non lo so, adesso tu. Abbiamo fatto tempo bello, vediamo se è efficiente da poterla smontare e ripiazzarla, se no questa la lascio stare qui e la metterò quella nuova, se ho bisogno delle luci. Bene Meda, avanti Marco. Volevo chiedere a Gianni se è stato alla rotonda, se è vero che hanno smontato addirittura la pensilina per mandare via quella. Per uscito sul giornale dice che hanno usato due camion per togliere tutto l'omottinaggio che aveva fatto lì, forse hanno smontato addirittura la pensilina per obbligarla ad andare via. E il comune avrebbe in futuro pensato di dare un alloggio. Ti risulta che abbiamo tolto tutto? Marco, dico la verità, io non ci sono molto andato alla rotta. Sì, sono entrato però ho portato il tutto per la bianca. Sono entrato alla rotta, non ho fatto un caso, non ho guardato. Abbiamo girato direttamente per mettere al tempo e non siamo andati. Ma io che ci devo contare la passata di terra. No, voglio lasciarlo qua. E da quello si sta avanti. Omar. Oi. Non hai visto il servizio che hanno fatto a Antenna 1? No? Da paura, da schifo. Addirittura oscuravano la telecamera, come hanno tolto il telone e hanno iniziato a muovere, proprio l'hanno fatto vedere dal vivo. No, se va lì l'arrestano questa volta. C'erano i vigili del fuoco, i carabinieri e i vigili urbani. Ok, l'assistente sociale addirittura aveva buono, cioè comunque c'è l'invasia. Hanno fatto vedere un bel servizio. Come hanno tolto la tenda e hanno strappato tutti, hanno iniziato a togliere la mondezza. Ne sono usciti 4 o 5 tuppi da sotto la mondezza, ma grandi. Ma tu ti rendi conto che questa viveva in mezzo ai tuppi? Viveva in mezzo ai tuppi! L'ho letto, guarda, avrei voluto vedere il servizio. Sì, era uno schifo, era insostenibile. Poi in estate non è, col caldo non ne parliamo, sarebbero moltiplicati i topi pure. E purtroppo non si poteva aspettare ancora, non si poteva aspettare perché era una cosa indegna. L'avrei voluto solo vedere o dal vero in TV, ma dal vero deve essere stato impressionante, guarda. Mamma mia, passa via. Non è capace di fare la spiaggia. E l'ultima cosa che fa Gianni, perché le mettono le manette, hai capito, non si possono fare certe cose. È stata diffidata, c'era un bel articolo sulla Nuova Sardegna, l'ho appena fatto vedere tutto il servizio che hanno fatto proprio Antenna 1 con la Nuova Sardegna, Vigili del Fuoco, Carabinieri. Ma ti dico, uno schifo Gianni, da paura, tu immaginati uno di quei mini compattatori della nettezza urbana, pieno solo di mondezza sua, pieno, l'hanno inquadrato pieno di buste di mondezza, buste e cose assolutamente schifose. Ma come hanno iniziato a muovere, a cominciare da passisciorighi, da sotto, proprio praticamente lì dormiva sopra la panchina e sotto zibunia tutta la mondezza, e lì hanno iniziato a fare i nidi tuppi, capito? Quindi una cosa allucinante, schifosa, veramente vergognosa, mamma mia, che schifo. Addirittura oscurava la telecamera perché inquadravano il topo correndo, però oscurava la telecamera, si vedeva nella telecamera proprio la grandezza del topo, allucinante, veramente allucinante. Vai Natali. Ma non era meglio mettere fuoco direttamente a tutto il telone con quello che c'era dentro, con lei dentro? Ma se sei tu che riportavi, c'è la moda da vedere, c'è la roba da mangiare che ti porterà di più. Adesso non sai più come fare a vedere. Già, minimo c'erano 200 scatolette di tonno, tutto in terra, di tonno, papiro, di tutto, mondezza, addirittura, non ti dico chi, ma Marco lo sa, no? Figlio Nico lo sai che è vigile del fuoco, mi ha raccontato proprio l'altro giorno che c'erano anche gli escrementi, quindi praticamente lei faceva la pipì e la cacca lì dentro la tenda, quindi voi immaginatevi in che mondo viveva questa. Ma se facevano, Marco, quello che hai detto, a mettere fuoco, sarebbe stato un disastro ambientale, perché sarebbe stata una colonna di fumo alta 10 metri, nero però, fumo tossico. Ai, mamma mia, cagava lì, infatti ho detto, ma questa in pieno inverno col freddo, col vento, dov'è che va a fare le... Prima di tutto non ci lavava, perché tolgono, mi pare che non ho... Guarda, mai, che schifo, mi faccio anche la voglia di mangiare, una cosa fuori... Comunque Gianni, lo sai che lei prima di andare sulla pensilina aveva una tenda in spiaggia, cioè una tenda sempre rasente alla rotatoria lì. Era in tenda lì, poi gliel'hanno distrutta, gliel'hanno fatta a brandelli, lo sai. Non si sa se fossero quelli del comune o chi. E poi si è trasferita sulla pensilina. Noi portavamo da mangiare ai cani, portavamo da mangiare, non a lei. Beh, siccome i cani stavano sempre con lei, intorno a lei, lei diceva, no no, hanno già mangiato, dice, glielo do io dopo. Tu andavi la mattina e ti diceva che avevano già mangiato, andavi il pomeriggio e ti diceva la stessa cosa, la sera la stessa cosa. A me è venuto anche il dubbio che la scatola grande di bocconcini per cani non la imboscasse per mangiarcela lì, lo sai, ho pensato anche a quello. Eravamo assieme, ti ricordi? E c'era il più stronzo, quella barroncina che si stava avventando a Tyson, ti ricordi? I cani gliel'hanno portati via, hanno fatto vedere anche quello. Ok, c'erano le guardie zoffre anche, mi sono dimenticato di dirtelo, con i baraccini gli hanno portato via anche i cani. Capito? I cani li hanno messi al canile, portati via, li hanno portati via tutto. Se si presenta lì le mettono le manette perché la stanno tentando i vigili urbani. Gli hanno tolti dalle balle quel cane, beh, meglio così perché inseguivano le motorette abbaiando, rischiavano di azzannare alla cabiglia qualcuno, insomma, noi li portavamo qualcosina, ma già erano rompiglioni con gli altri. E si attaccavano ai cani, capito? Potevano essere un pericolo potenziale. Hanno fatto bene a ripulire tutto, così quest'estate almeno me ne posso andare alla rotonda tranquillo. Comunque, guarda, era da vedere lo schifo che c'era sotto quel talone. L'avrei voluto vedere, poi avrei vomitato, può darsi. Guarda, soprattutto c'aveva i piedi neri, c'aveva sempre quelle scarpe aperte, quei sandali, c'aveva i piedi neri dal pingo. Già si lavava con l'acqua salata, capito? Così la disinfettava. Marco, da schifo. C'erano le telecamere, però oscuravano, poi aprivano per non far vedere determinate cose. Però il commento del cameraman era una cosa impressionante, perché ha detto tutto quello che c'era dentro, tutto. Ma poi è cominciato a farti i surighi, si vede la video e poi, capito? Allucinante. Qualcuno l'hanno ammazzato, qualcuno è andato a finire chissà dove, ma grandi, che convivevano con lei, capito? Convivevano con lei, quindi è una cosa veramente pazzesca. Poi hanno intervistato il comandante e ha detto chiaro e tondo di non assolutamente darle da mangiare, darle soldi, far finta che non esista, che poi già se ne occupano loro. E tu vedrai che se si presenta lì la mettono dentro, per violazione di suolo pubblico, per abuso del suolo pubblico, per tantissime cose, per cose ambientale, capito? No, ma una cosa allucinante. Te l'ho detto che l'avrei voluto vedere. Sicuramente c'era anche qualcuno che magari passando lì si è messo a guardare. Poi la cacca, il piscio, mamma mia, una cosa veramente schifosa. Ma lei, guarda, io, una donna che vive in quelle condizioni, nella sua cacca e cosa, gli avrei fatto direttamente il TSO. E tuttora, se va di nuovo lì e comincia a fare di nuovo quelle porcherie, le fa il TSO e la mandano in psichiatria, capito? La mandano e da lì non esce, perché lì è chiusa a chiave. Non la possono tenere più di tanto, poi la devono liberare per forza. Mi ha tanto riguardo una visione, ma se mi la vedo malzessa, in un istituto vuole mettere questo. Tanto lì non va da nessuna parte, L'hanno intervistato anche il assistente sociale, non va da nessuna parte. ci sono le queste cose, no? Lo sapete voi che avete fatto volontariato con Gianni, ci sono questi centri di recupero, ma no, non dico, ma almeno per dormire, per lavarti, per essere un po'. Ma se ci ricordiamo tutti a Sassari cos'era, belli capelli, ti dormire i banchini, come te cuscino va via Ribéry, guardalo adesso, ma quanto ci ha messo a cambiare atteggiamento? Hanno i bragati, i vigili urbani, aiuto, alle suore, vai, e noi più uscito dai chivi, fino a quando non era veramente a posto, è sempre il gabimacco, però almeno è pulito, ordinato, lavora perché vende roba, le danno roba da vendere ai napoletani, capito? Cioè, tante cose ci sono. Se tu vuoi aderire a quello che ti propongono, va bene, ma lei non vuole andare da una parte, ha detto che vuole fare la randaggia, l'ha detto chiaro e tondo. Non l'hanno intervistata con la telecamera in faccia, perché era oscurata, però stava parlando lei, l'ha detto, io vivo così, non voglio niente da nessuno, ha detto, capito? E la senatrice ce l'ha detto, sì, lei può vivere come vuole, ma non può andare ad occupare suolo pubblico, vivere negli escrementi, insomma, fare tutte queste cose che ha fatto, e che sicuramente continuerà a fare, gli ha detto, di nascosto, perché non lo fa in presenza delle forze dell'ordine, gli ha detto, sono cose che non si possono fare. E lì c'è cosa ha risposto Marco, che non gliene frega assolutamente niente. Beh, da una del genere me lo posso aspettare. Guarda, lei l'ha sempre detto, se mi mettono in qualche, sai quelle accoglienze pubbliche, no? Sì, i dormitori pubblici, no, dove mettono proprio i poveri, i barboni, lì ha detto che scappa da lì, perché lì è tutto orario, a quell'ora si mangia, a quell'ora si va a dormire, e le ricorda il carcere, così mi ha detto, le ricorda il carcere, e quindi lei non vuole sottostare a orari, a coso, a quello si mangia, a quello si dorme, a quell'ora si spegne la luce, capito? Beh, speriamo che quantomeno cambi zona, e comunque già ce la cucinano bene, se combina quello che ha combinato prima, ce la cucinano molto bene, e magari piglia pure colpi. Il comandante dei vigili urbani sta facendo sempre in macchina con i vigili urbani, e quello non scherza. L'ho detto, se la trova gli mettono le manette. L'ha già detto, l'ho intervistato proprio a lui, Natalì. E lo buffoneggia perché l'ero del tuo, io lo conosco da quando è arrivato a Sassari la prima volta, da quando poi è andato a Olbia, ci conosciamo con Gianni, quindi ha detto che proprio ha dichiarato l'Antenna 1 che non succederà mai più una cosa del genere, perché controlleranno 24 ore su 24 tutte le postazioni a rischio, e se la trovano questa volta le mettono le manette e la portano dentro. Di quello non scherza, e se il comandante bravo a dirlo, noi agisce. Se l'altro giorno c'erano due caratteristiche qua, tra su da via Vannabasso a scendere, tutte le vie, via Medici, via tutto, anche via La Malfa, perché c'erano un sacco di macchine stato abbandono, capito? Senza assicurazione, con le gomme sgonfie, tu. Ha mandato lo garattrezzi, ha fatto man bassa, minimo 7-8 ne ha portato via. Adesso tutti i posteggi sono liberi, tutto pulito, ma se, quando è? Forse prima di Natale. Ho fatto una segnalazione perché i marciapiedi, io c'ho il cane e ci tengo, come Gianni, come tu, no? Tutte e tre abbiamo il cane. Il mio cane non sporca mai nei marciapiedi, fa un po' di pipì e poi vuole portarlo nell'erba, perché è abituato così al piccolo, io lo porto nell'erba. Ok, dove c'è il giardino comunale, oppure nel mio giardino che è abbastanza grande. Beh, in questo marciapiede, fronte via Milano, non si può camminare, non si, era tutto sporco da lei. Gliel'ho detto a lui personalmente, ho detto ora che passa così e così. Dice, fai qualche foto, no, io foto non te ne faccio, ogni tanto fai girare qualche pattuglia di giurbani. Beh, tu vedi la mattina e la sera fanno 3, 4, 5, anche 6 passaggi la pattuglia dei vigili urbani, e soprattutto ho avvertito i baraccini della zoofila, capito? Infatti l'altro giorno c'erano le guardie zoofile che hanno fermato un ragazzo con un fattore tedesco non puro, quindi gli hanno chiesto i documenti e poi hanno tolto l'affare per vedere se c'era il microchip. Poi io continuato a camminare col cane perché non me ne frega un cazzo, però sto dicendo, ci sono un po' di controlli da quando glielo ho detto, quindi tu immaginati, non buffoneggia, se tu le fai una segnalazione Gianni non scherza, agisce come hai detto tu, perché è rientrato a Sassari per mettere a posto le cose. E attenzione, ve lo dico perché l'hanno fatto a mia figlia, ci sono vigili urbani in borghese con scooter borghesi, ok, c'hanno solo la paletta nascosta, se ti vedono col telefonino in mano ti si affiancano, ti tolgono la paletta e ti rovinano, state molto attenti. Perché devi chiamare al telefonino col telefonino? Io sono di una volta in mano. Quando mi telefono schiaccio e non so come e fa visto, quanto voglio avvisare. Sicuro. Già a me non mi piace il telefono perché io lo uso solo per cose urgenti, se no non mi uso neanche. A me quando mi telefono rispondo tranquillo, però non metto il pericolo la vita di nessuno. A chi io faccio due o cinque settimane che hanno bisogno di lei. Uno mi sta posto sotto a me, a Giumagno, mi dice che si vedono lì oggi in corso di civiltà. Ho visto che era distratto, ho messo le mani sul coppa, hanno cazzo, ho saltato la macchina. Se noi gli arrabbiamo buona, mi sono sotto. Avete visto Gianni via Mendola stamattina alle 9 cosa è successo? Di nuovo un'altra analistice pedonale, un camion, quelli che stanno portando il bitume per asfaltare via l'Italia, ha girato la via Porcellana, questa attraversando le strisce pedonali, sicuramente o era al telefonino o si è distratto a guardare qualche culo, capito? C'è la biglia buona, ha sequestrato il camion, lui è in stato di fermo, 58 anni, ammazzata come un cane nelle strisce pedonali, stamattina alle 9 via Mendola. Come c'è Tabacchino lì? Capito? Lui è uscito via Porcellana perché ci hanno il senso, gli hanno fatto il senso unico per poter uscire e poi andare verso l'uscita di praticamente la fine via Mendola che c'è a 131. Capito? Cattegata, commenta un cane, morta sul colpo. Capito? Quindi mediante la terra hanno sequestrato il telefonino e il camion e lui è stato lì fermo per il momento. Adesso guardano se lui in quell'attimo che è successo l'incidente era al telefonino o la ruineggia, non ha finito di travagliare. Ma fateci venire a mia figlia. Avanti. No, ma non si può utilizzare, magari da un attimo, subito dopo ci sono le strisce, quindi le strisce pedonali, l'hanno fatto vedere nel telegiornale, sia Rai 3 che la videolina, è visibile al 100%, quindi qualcosa è successo, adesso sta alle forze dell'ordine sapere come, quando e perché è successo, tanto è morta sul corpo, l'ha trascinata hai capito? Alle strisce pedonali, lei che stava attraversando era 5 metri mi pare, hanno dichiarato 5-6 metri fuori dalle strisce pedonali. Quindi è durante c'è manco lo sbocco. Vabbè, comunque, che cosa volete fare? Anche queste cose è successo. Marco Condor, ti stai strafogando? Comunque sta funzionando la telecamera, sta facendo. Sì, l'hanno detto. Telecamera, stanno visionando le telecamere e poi dai rilievi loro si accorgono praticamente tutto. Ho visto c'era anche il comandante nel servizio. Sempre presente a Natali. No, Giussi, sempre presente. Sì, la sera di sera, l'ho sorpresa, ma che cosa fai? Se vuoi dire che non ho capito, sarebbe guardare. Molto bravo. Lui era bravo quando era tenente colonnello, vabbè io lo conosco da maggiore, poi è passato tenente colonnello, qui a Sassari, ed è andato a comandare il comando di Olbia. È passato colonnello lì e poi è andato in pensione quello che c'era, Careddu, e lui è tornato qua. E bravo, hai tanti sotto i vigili urbani, tutti belli etichettati, e già rivedi ieri da Biudici, ciucciù, no, c'è più vicino un vigile urbano, prende un bar. Ah, l'ho visto, sì, un chissà Megan, l'ho visto la Megan, va tutta piena di antenne, chissà Megan, radio, telefono, satellitare, tutto va, ma che 4-5 antenne, c'è la macchina della Rai. Non l'ho visto, mi sta succhiato sul collo, aiuti, stanno lavorando, beh. Perché un comandante deve essere così, deve passare giù là. E così deve essere, non mettessi vera prima, se ne sbatteva altamente. Va bene, avanti già, dobbiamo aspettare ancora, sta più avvicinando quella pioggia, fine, credo tu hai scatole. Sì, purtroppo stiamo andando per l'acquale. Cosa Natali, avete parlato in due? Che il tempo non è tanto per l'acquale, meno male l'ha già portato con questa. No, vabbè, Filippo l'altro giorno fuori, eccetera, poi ha iniziato, quando c'era il vento, ha iniziato con la pioggerellina, ha detto io ce ne scendiamo. E quindi lo porto dopo qua, perché dovevo mangiare qua, capito? Non può mangiare poco fa, alle 7:15, adesso le 8, così lo porto, 7:30, 8, vai. In modo che stia tranquillo, ma non dovrebbe piovere forte, fa piacere lì, già si può uscire, non è un problema. Già, l'ha giovato una capottina, con un giubbotto XXL. Ah, certo, me l'ha fatta, avevo un giubbotto, nero, gli ha tolto le maniche, XXL, lo mettevo per lavoro, due XX. Lo mettevo per lavoro, gli ha tolto le maniche, l'ha cucito tutto bene con sotto la cerniera, ha fatto gli altri fori per dietro, non c'ha niente, vabbè lui c'ha la cola, non ne ha dietro, il libero, mette le quattro zampe, esce il collo normale con appena di collettino, bellino, se non le trovavo, no, ne ho trovato da nessuna parte per la taglia sua. Già tutti piccoli, no, non le sta, la testa le entra ma sotto dove c'è la pancia e il petto, tutto, non abbottonato, ne ho provato un sacco. Quella del Zoomarket, vabbè non si chiama più così, l'altra, mi ha detto che se lo volevo l'ordinava, 75 euro, ma lo trovi, 75 euro. E te zitta che tu lo chieda, ragazzi, c'è una bravissima sarta qua, l'ha fatto, ma sembra comprato con la cernierina, bella, e due taranche, io metti al nonno, tu buoni, e poi glielo chiudo, almeno non si bagna, capito, quando sta, proprio un giubbotto di quelli, non con pelliccia, dai, però dentro c'hanno la fovera, ed è abbastanza robusto per non entra l'acqua, mi capito? Anche io ce l'ho col cappuccio, solo che solo che non si può far pulire, però quando piove sono costretto a mettere, non mi può far mettere in nessuna delle maniere, non è come si può, questo è abbastanza costo. Avete parlato di nuovo in due con Natalino? Sì. No, quelle io non ne ho problemi, me lo porto solo se lo porto a passeggio. Se no io qua a casa mia, tutti lo portiamo, il giardiniere non si è mai lamentato, che trova la cacca del cane nell'erba, capito? Poi secca subito. E niente, e nell'altro coso lo stesso, assolutamente, però quando lo porto in giro, che magari sai, se viene qualche, la può fare anche il marciapiede, la me lo porto, però le ho comprate lo stesso, va così, come hai detto tu, 1,50 euro, 1,50 euro, è troppo caro, visto, è troppo caro, ma non per l'estate, io non ho per il giubbottino già, perché non mi piacevano neanche sinceramente, era roba vecchia, non innovazioni, ne ho visto molto bellini, in casa roba vecchia invece residui di magazzino, ho detto no, già mi arrangio io, già mi giocherò già due io. Cosa hai detto Natalì? Anche io ce l'ho, ne ho due, per il mio, uno è impermeabile, va più di cappuccio, giuro più o meno se mi fa sempre una cosa, è bastardo quel caso, sì, ma quando fa tempo brutto che lo devo portare per forza glielo metto, appunto. Non si ne fa più. Come ti lo vedi, mamma mia. No, ma i nostri, anche quello di Gianni, il mio, già ce lo fanno mettere, mi piace un bel caldo, capisci? Tu immaginati quel periodo, quei giorni che c'era molto freddo, 10, 10 e mezza, spegniamo il riscaldamento, lui aspettava, stava così che mi guardava, metà di male, la copertina non me la mongo, avevo comprato una copertina, un plaid proprio per cani, lì da bricocina già. Glielo metto sopra, no, rimane tutta la notte con quello, non si muove per niente, e se si gira lo prende e se lo rimette sopra, immagina già di lui, le piace il caldo a questi cani Natalì, capito? Quindi se lo fanno mettere, io lo metto sopra, io no, e lo starà anche subito, tata, via, vamos, via da te, mi tocca fare la guerra, ma pure di una bimia, uno è più impermeabile, va più da più, ma è una scena per portare. Io gli ho preso la piccolina, l'ho preso perché me l'aveva detto già. Sì, no, la verità c'hanno tutto, per taglie piccole c'hanno tutto. Per taglie grandi è un casino, io non ne ho trovato nessuna parte di questi giubbottini così. È un casino. Avanti già. Cosa già che mi stava distraendo mia moglie? Ho detto che mi stavo a sorpresa. Sempre tutto fermo per quanto riguarda il discorso pensionistico, niente. Sì, dai, ci sono tante due bagnacchini, ma... No, ma come c'è? Oh, bene. Ok. Kappa. Già va bene così. Poi quando decidi di andartene, almeno sai quello che devi fare, come fa lui, capito? Lo so, intanto ogni anno ti mandano a visita di controllo, quindi può avere aggravamento oppure altre cose, dipende, spero che non sia così. Comunque lui già gliel'ho fatta, gliel'ho confermata al 100%, oramai ho venuto da là. Dopo tre tu? Chiamano, quest'anno devo andare a farla insomma, e tutti sono due gusti che sto cantando. Infatti vado ad andare al produttore a filmarmi, si deve rifare, dice al cardiologo. Però cazzo, l'ho fatto il 16 di febbraio, i certificati sono del 16 di febbraio e dovrei andare a tutti. Forse per i privati è così già, non lo so, il fratello di pianto regionale, capito, l'ASI, e quindi ogni anno li mandano a controllo. Lui è andato a gennaio, li hanno riconfermato al 100%, non ha avuto nessun né peggioramento né miglioramento, quindi se la porterà sino a quando decide di andare via. Non è molto, però già andare. Ah, sicuramente, io guarda, sono rinato, va bene così, non prendo più di pensione che quando andavo a lavorare. Ma tu non dovresti informare, non hai detto che avevo guadagnato è basta togliere 1800 euro, 300 euro al mese, 6 mesi, non avevamo fatto bene i conti, era 42 e 6 mesi, io ne avevo solo 42. I 6 mesi riscattati, 1800 euro. Ah, si ritraggono direttamente la provincia? No, oggi magari io, 1800 subito, cash, 6 mesi, 3x6, 18, cash, pagati, a posto. La sto già prendendo. Ah, poi io mi ritorno a casa. Sì, no, quello era per poter fare un'altra cosa, capito? Per poter fare un'altra cosa. Sono 6 mesi. 42 sono dei contributi versati, però si doveva andare a 42 6 mesi. Purtroppo non ho fatto bene il calcolo e quindi è andata così. Non me la fotti nulla. Benissimo, alla grande lo stesso. Alla grande, intanto sono andato col massimo, guarda. Al massimo 1640. Capito? Perché se non mi toglievo questi 6 mesi era intorno ai 1380-1400. Invece 1642,50. Beh, è normale. No, quindi sono qua. Grazie a Dio in questo periodo si sta viaggiando alla grande. Ho fatto un po' di radio l'altro giorno, un paio, due, tre ne ho fatto, più altra roba che avevo in più, capito? Ne ho fatti a Neuri a Totò, conservami di tu perché sennò io sono poco, vengo qualche altra cosa, ma con pareggio, invece niente da fare, non compro più niente già, ho tutte e tre le radio, 430, 440 e 140, una KF e un base VU, boh, basta, il resto tutto tolto a mezzo delle balle. No, già, ma se ci fosse un obiettivo, no, non fa. No, cioè non fa, vuol dire che non... Cosa fai? Ce lo vedi, siamo 4 gatti 27, la radio per la 27 ce l'ho. Manda amatoriale, non la sto più facendo. C'è un bel base VU di ultima generazione. Boh, basta, il resto se ne vai già. Sono soldi buttati. Guarda, la verità, ne potrei prendere tante di radio, veramente, ma non ne spendo più soldi, non spendo più perché tanto non ne vale la pena, non ne vale assolutamente la pena. Avevo deciso di togliere anche le direttive, adesso vediamo, Vediamo, più avanti, a tempo bello, se organizzo, abbasso tutto, le smonto, le rimetto dentro le scatole e lascio solo la V e la U e la manto va già, perché tanto è a rovinarsi quelle antenne lì sul tetto, a stare sempre quando c'è vento con gli occhi aperti, anche se il lavoro che ha fatto Fabrizio ho fatto a regola d'arte, la verità. Però sai, c'è sempre il problema che potrebbe rompersi qualcosa e mi gira le scatole, quindi ne le smonto, intanto non le sto usando, già ne fa e via. Quindi il resto tutto va bene, tutto procede bene alla grande. Tata lì e due, tutto a posto, sì. È venuta a abitare l'amica di mia moglie e mi ha piazzato l'antenna vicino allo stilo del coso, roba di Banzinati e Piglietta, va. Ma l'antenna quella PMR? No, l'antenna TV vicino allo stilo dell'antenna della 27 me l'ha messa. E di culo, prende tutti i colpi di alicchiali. Caso sei in casa, vedrai, se non vedi neanche di bene, fammi salire. Sì, sì, assolutamente, dammi la bombinata alla capitiglia, appena della 27. E vabbè, se vuoi bruciare, dai in coda, riferma l'antenna, non davvero mattesci. Ah, da bocca a pompa, la bocca. A provare il microfono si è amplificato. Cioè, se bene. Magari esce un pom pom pom pom pom. Cuccia, fai la brava. Va bene, ragazzi, dai, che sono questo è puntuale, poi non ho più il dito orario, no, 7:30, è già 39 che rompi l'anima, adesso lo porto, va. Ok, se ci siete ci sentiamo dopo, se no ritenetevi salutati, ok, vai già. Minchia, se non c'era vento, guarda, di nuovo si è messo il vento all'imbeccio. E vabbè, lo porto un pochettino qua sotto, là, fare un po' di pipì. Già ci sentiamo dopo se ci siete. Ma Marco, cos'è, morto? Sarà bocca a pompa, Marco, non parla, non agisce. Sarà magnente, se mangia i gucciucci. Aspettando la macchina in volume. Invece al guru è da Bonolis, io non avevo un pezzo di conduttore come Cristiano, meglio di Bonolis. Ah, Colino Condo, non parli? Adesso ti faccio parlare con Tito. Grazie. Aspetta, quando ho occupato di che stava contro la strada di Alvira, visto quando ho occupato di la strada di Alvira, sta andando sotto il centro. Si è allucinato. Stavo parlando con la macchina, si sta chiamando il carabinieri. Ah no, è giù la Paola. Mi sono dimenticata Claudio di che la patente l'ho rinnovata. Sì, me le hanno lasciate tutte, fino a 65 anni, poi mi faccio dare la cosa mi ricordo. Me le hanno lasciate fino a 65 anni, 5 anni, là. Cade nel... alla data del mio compleanno nel 2025, cioè, in camera. Nel 2020 mi scade il CQC, io 350 euro non li spendo più e non ci vado a scuola di per rinnovarlo. Hai capito? Che non me ne sbatte nulla. Una volta ti scade il CQC, come ti va a rapire. Sì che me l'ho sfruttato, perché quando entri al comune vogliono la CICO, il CQC, io ne ho due CQC, ho detto sì e di persone e cose. Ah, perché adesso ci vorrebbe? Allora, sì, quando ci hanno dato il CQC, ci hanno tolto il K, Se no, senza il K non ne potevi portare di, come si chiama, di firma. Solo quelli privati potevi portare. E buh. Quindi linea non ne potevi fare, non potevi fare nulla di andare di qui. Chi vuole? Persone e cose, tutte e due si vogliono, ma io sono felice. Nella patente, ma hanno lasciato anche la patente vecchia. Mi è arrivata a casa dopo 4 giorni quella nuova. A chi va a mandare di far Roma? Non preso, quasi mi prego. Sì, come ha fatto con me? Mi ha preso, mi ha dato quella notizia, così è, no, invece a me mi è arrivato dopo 4 giorni e ho dovuto pagare 7 euro. Più di 21 euro mi sono effettuato, più 87 mi ha girato 2 euro la scuola guida, più di fotografie, più di 20 euro, più di cose, no, 100 euro, là. E poi c'è la scuola guida, quando andiamo a farla al corso, non abbiamo preso la tacchetta, c'è, sono delle sedi. Poi ma dovevi fare i versamenti, invece la scuola guida mi ha arrivato sul testo, io non ho aggiurato nulla, l'ha aggiurato giù la fotografia e la fotocopia, e ha voluto la patente e la tessera sanitaria, ha voluto, per mandarli a Roma, no? E basta. Mi hanno fatto tutto loro i versamenti, sul testo qua. E 40 la giuridica, la giuridica, 40 secchi a scuola guida. Rinnovare pure quello, se no ogni anno mi do a buttarli, ma se i documenti che fa rinnovarli ogni anno, ah, mi convence, me lo rinnovo e mi dura 6 anni, non pago né tasse né nulla. Sì, se altri paghi, quello la cassa paghi 700 euro per rinnovarlo, ma ti conviene, mi amare gli tacchini, non ben nulla, e rinnovo, no? Io quello da caccia l'ho versato in vettura e mi ho fatto dare quello sportivo, mi ho fatto dare, così non pago tasse. Quello di legittima difesa addirittura devi rinnovarlo ogni anno, devi andare a, e devi sparare pure al poligono, se no, no, quello di difesa personale non te ne rinnova, ogni anno devo andare, vai vai, quello sportivo mi dura 6 anni come quello da caccia e non pago tasse, non pago nulla. Posso portare più cose di avere portato l'arma da casa, di tutto qua. La macchina? Sì, non me l'hai detto che l'hai detto. Sì, sono motori di nuova confezione, sono fatte più bene le macchine, non sono più come una volta le macchine Fiat, si sa come sarà vista quella. Già me ne sono accorto dalla mia, che la mia è vecchia adesso, però la mia era basta aveva prima, non era come se la macchina Fiat, infatti sta per bene che ce l'ho ancora. Mi era in camiciata di carrozzeria, ma chi non gliela mi va a bella. Perché quando io l'ho portata da campagna qua non c'era un graffio la macchina. Ma è tanta trilattata. Ah, ma perché c'è la macchina la camicia? Perché fuori, come molto E infatti il motore mio è un un motore di lusso. Il tuo lo stesso, mi ha detto che è ibrido, che fa benzina e a gas, quindi è di lusso lo stesso, non te la spiega. Io dico, non figuravamo ancora la benzina, ma farla abbassare, andare direttamente a gas, come i nuovi impianti che hanno fatto loro, no? Perché c'è solo la fabbrica, è diverso da quello che fanno i privati. Sì, ma praticamente tanto è stato caricato. Questo lo sta andando a usare, no, ma io vedo girato, non si ce l'ha quando c'è la seconda mano, e sono anche perché questa cultura che ha messo a cominciare a sempre molto bene. E abbastanza è fatta per piacere. Vuol dire più là la tira mia da lì, a da lì. E già non voglio dire che lì sarebbe da punta, ma poi sono belle le macchine qui a guidare. Ma io prima ero un po'. E a proposito del 127, lo sai che una volta l'ho tenuta la 127? Perché ce l'aveva mia suocera, ce l'aveva la madre di Paola, no? E io avevo una di quelle macchine grandi, cazzo, del 2005 diesel era, si sa chi fa vivere la manna, cazzo, due bocci, cazzo, era furgonata, no? E della manna come se macchina raga, i bocci in vita 127. Beh, allora sai che mi sono spaventato per lo spinto che avevo, poi mi vedevo stretto come... perché ero abituato alle macchine grandi. Sì, e poi aveva, non so, il dispetto della pompa sì. Infatti io, quella che avevo io, quella rossa, te lo dico, quella amaranto, avevo sempre la pompacina e il cofano nuova, così si metteva in mano, lo sapevo subito che era la pompacina. Gliela cambiamo, tre bulloni, mira, pro, e la macchina torna a posto. Aveva quel dispetto, insomma, della macchina prestata, che è quella che c'è. Eccomi qua. Sì, ma stiamo parlando di revival, di 127 gram. 127 macchina? Sì, io l'ho vista. Stavo dicendo, siamo contento con la macchina vicina. Io ho avuto 127, quello che era uscito diesel, 1003 diesel. E funzionava bene, sì, andava molto bene, e vabbè, era giovane, le macchine, ui, anche lì, per carità. Io ho avuto la 500, 517, ho avuto 50, e quello che è stato, l'ho avuto 70 anni, e poi, da appunto, fatto da uno, due, diciamo, prego, la offre non funziona. Eh già, io Alfa avevo l'Alfetta cambiata Bologna bianca con il foglio oro quando ero a Polottorci, che ho finito a passare, avevo un bel Citroen, ho avuto Citroen Pallas GS. Iniziato ho iniziato con la 126, sono andato la secchia a prendere la patente con la macchina, laggiù parcheggiata in Kiwi via Barai, cos'è quello? Lungomare Barai, ciao là, Lungomare Barai, lui aveva qualcosa lì, cos'è? Via Ponte Romano, si è lì, l'autoscuola, allora, avevo già dato la guida, avevo già il foglio rosso. E quindi niente, con il 136, poi ho iniziato lui, la Savette, no, questo ho deciso, fino a quando funziona bene, perché funziona bene, non ci ha creato ancora nessun problema, è a posto, internamente, non ce ne butto su, infatti la rialzo, papà, ancora quest'anno la macchina va bene, la teniamo, poi il prossimo anno vediamo, però no, se sono costretto, come sei stato costretto tu, sì già, ma se la macchina va bene, lui non la sto neanche usando, lo uso solo l'aria per andare al lavoro, io sto sempre con la mia topolina, ma la sono tutta fatta mettere a posto da Roberto, e quindi va bene così, lui adesso mi estratto inizia con la moto, però se uno è costretto la macchina ci vuole per forza tu di a piedi, mi hai fatto bene a prendertela. Ho detto ma dopo Pasqua no, non andiamo a, a mangiarci una pizza. Intanto io non la mangio la pizza, so che mi sale proprio la vicinia, poi qui da un giorno dopo c'è la pizza. Non fare una cosa, non è no, no, se ti aspetta anche adesso ho pensato la con la macchina di casa, ho dovuto risultare. E praticamente al padrone dove c'è di venire faccio, non sai che ultimamente non si faceva più niente. Adesso che la stavo perdendo e non mi ha fatto niente. Me ne ha fatto un altro però che stavano presentando le macchine, non tutte le macchine, la vecchia marca, poi hanno preso anche le altre, un altro specialista. Però non era la pistola, perché la pistola c'è incontrata la pistola, spingendo la pistola, la macchina continua ad andare, non è gratuito, il consiglio ci cerca che va a vuoto, fanno i leggi del motore, invece la macchina tira, va bene, io penso che sia la pappala del cambio. Sì, qualche sincronizzatore, poi ce la fa fare il cambio, qualche sincronizzatore. No, oh, la mia con un dito la metto le facce, no, no, va, mi sto toccando già. Perché c'ho altre cose da fare, non ci devo buttare su neanche nella macchina, quindi fino a quando va, va, è a posto, è perfetta, poi è andata, poi io vado da Roseto, mi ha detto che era a posto, che non, non c'è nessun problema, ho fatto la distribuzione l'anno scorso, ho messo alternatore nuovo, ho fatto tutta la manutenzione, ho cambiato olio, tutto, abbiamo messo quattro gomme nuove da poco, ma passare il taglio andava bene. Va benissimo, alla grande. Se poi sono costretto allora c'è la bigliellucci. Capito? Però la macchina se ti serve è giusto che sia così come hai fatto tu, ma se va bene solo per lusso, no, ho altre, altre priorità. E maggio così la va. Ecco che macchina è. Tattalino, Tattalino, è la tua, sempre bene sta funzionando Nattalino. La mia è un bugile. Alza che ho rinnovato la patente che fa. Oh, te le hanno lasciate tutte? Tutte, 5 anni fino al 2022. Bene, bene Nattalino, così se c'è qualche lavoro te lo fai. Perché adesso le patenti superiori quando superi l'età, però evidentemente tu sei ancora in grado di poterle tenere, capito? Meglio così, sono contento. No, beh, quei motori vanno bene, vanno assolutamente bene. E anche quella che c'ha Gianni, anche quella che c'ha Gianni, sono motori colorati, Fiat, non ve lo dava, Fiat e Alfa, e la mia c'ha il motore della, dell'Argenta, figurati. Cioè, più cavalli, è un 2009 GTD 16 valvole, 150 cavalli, quindi ma tu lo stesso è un GTD, però tu c'hai 120 cavalli, c'hai Natali, no? Ah, che se la mia la fai andare con un motore con 120 cavalli, quindi tu l'hai già aperta, si tratta dei Rucchi, che l'abbiamo fatta con coso, con quello di Viale Porto Torres, una, come la mia, gli abbiamo messo 120 cavalli nella centralina, perché si può fare, no? Solo che ne tracciava le ruote a terra, troppo leggera. E col passo Ferraria no, non ce l'aveva una centralina della 147, l'ha portata a 180 cavalli. Come ti batti da Vemo, si è stata via dritta la macchina, ti ascolta e poi faceva fumo, altrimenti mettimi la macchina com'era per favore. Prima che si faccia tutti gli occhi, ma taglio che si diverte, ah ti Nandi, mettimi la macchina com'era. Gli ho fatto togliere, cos'era? Già va a 150 cavalli, quasi 200, più di 220 all'ora c'è la macchina, alla volta c'è bidarmi, lascia stare. Anzi, gli avevo detto, mi ce ne metti il limitatore invece, che metti una doia va a rubare i bisanti, invece di farla correre ancora di più. Fino a di vecchia, infatti, è sempre con le macchine, a lui le piacciono le macchine veloci e grandi, capito? C'ha il il 330, lui della BMW Station Wagon, bellissima macchina, ma un 3000, mano tenante, 200, come vai, va 210 cavalli, vai, avvia, vai. E non c'è più l'età per fare queste stronzate, la macchina è bella, basta che ti porti a correre, lascia a correre i bilotti. Sì, basta fargli abbassare un po' di cavalli per camminare di meno, chi si avvicina va l'ubbidi pigiante, bisogna che la macchina abbia di mano. Visto la macchina si è bideggi, sono esabitati. Ma c'è un altro, te la sei vicino, prendi la 600, siamo un cerrato. Ah, 600, ma non te ne vai, 600, che quella è una scatola di tonno, io vado con la mia, quando sono in fretta, via Milano la faccio in 3 minuti. Ma uscire, vabbè, continua a far uscire lui. Sì, però è una macchina che cammina 150 cavalli, è una macchina che cammina bene, no? Atari, dei 2000, dei 1009, dei 2000, GTD è la più veloce, la 147. Giù tutta una giuccia al 320D a Mario quando c'aveva il 320 e ancora ben niente, ma giuccia però, capito? È un bel veloce quella macchina, un bel di potenza, cioè, poi c'è una stabilità allucinante perché c'è le barre stabilizzatrici anche dietro, una bella macchina, ero da tanti che non mi servo in Alfa, però sono propenso, mia figlia a me non me la fa più della macchina, la macchina. A lei le piace la serie 1, la BMW, però io sarei propenso a prendere la Giulietta 2000, quella doppia marmitta, due marmitte. E poi già le piace, ma le piace più la serie 1. Allora fai su te piace, ma macchina non me ne serve. Io ho la mia piccolina, mi sposto, se devo uscire fuori già ho quella, però va bene Natalì. No, non ne vale più la pena oramai, ti ripeto, se sono costretto allora sì, però va ultimamente bene così. Gianni, dormi tu di sì. No, e la mia traccia aveva più cianni, quindi stanno abbassando, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, non c'è più la chiusa, e poi che si è volato di spesso, la prima che ho fatto lo sbaglio, con il portamento, però quello non è stato così. No, già, quando la macchina si alza a fretta, quando lavora la macchina deve essere efficiente, quando c'è già quell'età, no, la mia è molto più giovane, è la metà, però chilometri anche di meno, però, ti ripeto, va bene, lei aveva fatto alcune cose di carrozzeria, adesso vuole dare una lucidata prima che inizi in tempo brutto, la macchina è a posto, ti ripeto, se sei costretto è chiaro che lo devi fare. Se però la macchina va bene, poi la tua è l'unica cosa che dispiace, che a parte i difetti che faceva, però la macchina era bellissima, nuova, per gli anni che aveva era nuova, tenuta bene, quindi è un peccato quando, perché poi magari sai come succede, no? È l'interno nuovo, bellissimo, internamente, esternamente, tutto, però c'è un problema di motore, lì devi decidere. O rifai va tutto chi ci devi va, quanto devo spendere? 3, 4 mila euro, 3 mila euro, fai tutto quello che c'è da fare e la macchina ritorna nuova, però è chiaro che c'è sempre poi il problema di dire ma ha giovato lì su gra, ho speso 3.000 euro e poi magari ne esce un altro difetto perché la macchina è vecchia, a quel punto lì non rischi, capito, la cambi. Yeah. Lo stesso questa ragazza Michela ha avuto quell'incidente, ha visto com'era, lo vedi adesso nuova, ma tutta fatta nuova Roberto. E la voleva rottamare, capito? Io vi c'hanno una nuova dentro, non so perché la rottami, scusa, neanche, c'aveva 60, neanche 60.000 chilometri. Io sono arrivato a 80, ma perché la usavo per andare a lavorare. Il motore Fire 1100, capito? Va benissimo, non consuma. Nuova, nuova dentro, nuova. C'aveva questa cosa fuori, fianco, sportellone. La voleva rottavare. Ho detto, guarda, ti pago il passaggio e la prendo io la macchina. Ti ho pagato 300, poco più di 300 euro, una cosa del genere, e me la sono presa io. Ci ne ho messo altre 700 sopra, tra gomme nuove, pattane nuove, ho messo i paraurti nuovi, paraurti avanti e indietro, i specchietti nuovi, il cofano di lo sportellone di dietro, fianchetto, l'ho fatta tutta bella lavare, lucidare la macchina è numero uno. E ti dico che è un gioiello già. Il motore sport, ho detto poco fa, tutte le Fiat hanno Fiat e Alfa, c'è il motore a benzina della Giulietta, sì sì, quanti cavalli hai? 105? 120. 120 cavalli, il motore 1420, 120 cavalli, va bene, non consuma, ottimo per la truffa, ottimo, andava bene, va bene. No, io benzina solo a 600, se riprendo, se cambio macchina sempre dice, poi sempre 1.900-2.000, quella cilindrata oramai varia. Sì, sto guardando il visore famoso, sì. No, perché il suo televisore. Claudio, aspetta più bene, se la riprende lo stile, le vite stanno eliminando, Tu cosa studi dalla circolazione? Sta entrando il veicolo elettrico e quello a gas. Sì, già, quando entrerà. Quando entrerà, il gasolio ci sarà sempre, quindi. No, io ho la macchina a benzina, già, no. Io, per me va bene, ma che sia una macchinetta piccolina, come quella che ho io. Una macchina grande a benzina, no. Diesel già. Vediamo. Io, tanto a me non serve provare a volere la macchina diesel. Cioè la serie 1, stavo dicendo a Natalino poco fa, la BMW. La Giulietta, sempre il 2000 però, il 2000 si diceva, che c'è il motore di questa, della 147, è uguale, pare che ci abbia lo stesso 150 cavalli. E già, le macchine sono bette, però, ti ripeto, io, fino a quando non si ferma del tutto questa, perché intanto il valore oramai non crederebbe nulla, quindi quando si ferma il tutto non sto lì neanche a girarmi le balle, la rottamo e via, se c'è l'incentivo della rottamazione faccio incentivo della rottamazione, se no la rottamo e si la viene a luce. A me mi hanno calcolato anche 400 euro il fratello, lo stesso il fratello ci ha preso la classe A da poco e ti ha arrivato Bogo a te, perché lui addirittura c'è la convenzione regionale con l'azienda, con l'ASI, gli hanno tolto 1000 euro. Sì, ma oltre quello che hanno fatto il entrate pagate in questo momento, queste rotte non ho messo pagate, certo rate se le pagano, insomma ci sono queste 4 anni perché quindi ho aumentato la garanzia quasi per il caso perché già, quello non ti hanno fatto assolutamente niente, permettimi di dirtelo, guardati che c'è la legge, ok, ed è obbligatorio, capito? Sottoscrivere la sottoscrizione dei 18 mesi in caso di licenziamento dal posto di lavoro. C'è la legge numero, qua se mi dà il tempo te la leggo pure, perché me l'ha dato l'altro giorno. C'erano questi fogli in banca, sono andato in banca e c'erano questi fogli appoggiati dove si prendono i distinti, lo stavo leggendo, e beh il coso famiglia, non so, ma se lo trovo te lo leggo, e beh una legge che praticamente è uscita nel 2016 e l'hanno prologata proprio a dicembre del 2017. Capito? Quindi è obbligatorio per tutti, anche se hai un finanziamento che non è la macchina, un finanziamento, un prestito personale, un mutuo, ok, la banca o la finanziaria per legge ti deve dare dai 18 ai 24 mesi di stop, perché tu non puoi pagare, è una legge già, non è che te l'hanno fatto così per cortesia, è legge. Poi chiaramente tutte le altre agevolazioni inerenti all'acquisto della macchina, quella è un'altra cosa, però quella è legge proprio del 2016, che è stata prologata a dicembre del 2017. Gianni, ma la 140 ce l'hai tu? La 104? Sì, la 104. No, negativo, la 104. Male, io ce l'ho. L'IVA al 2% pagavi, lo sai. Bollo non ne devi pagare, è della macchina. Se c'è quella legge lì. Non ce l'hai già la 104, ma non ti la vai, cioè, ecco perché mio fratello gli hanno fatto, l'ha pagata 1000 euro in meno, perché gli hanno fatto l'IVA al 2%, ragione natalino. Non ho fatto la poco da fare, perché mi sono fermato e sono avuto il conduttore, che non ho avuto la moto, e praticamente si è fatto male a un braccio, e non ho avuto il per invalidità tua personale la puoi fare, poi c'è anche l'altra per parenti, ma per te personale la puoi fare. E molte cose posso fare, perché cose di tanto culturale, tanti sono tanti culturali, queste cose. Mi devo muovere un po' quando c'è tempo, perché io non ho un po' di tempo. Sì, quello già ci vuole poco, va con le vigili urbani, porti la documentazione, ti rilasciano il cartellino da tenere in macchina, capito? E puoi usufruire di tutte le postazioni che ci sono in città. Hai anche il vantaggio di poter entrare, mi pare, nella zona ZTL anche col cartellino esposto, capito? Te lo diranno loro, perché anche mio fratello quando sarà a Sassari, capito, lui lavora a Sassari, adesso gli uffici sono, le lasi sono a Corte Santa Maria, quindi capita che deve andare al centro a ritirare la posta, va in macchina, entra tranquillamente, capito, va proprio alle poste centrali e ce l'ha lui il cartellino, e parcheggia proprio lì davanti alle poste dove c'è lo stallo Invalidi, e sono un sacco di agevolazioni, però chiaramente già questo detto in maniera così agevolazione, ma se non ci sono è meglio. Meglio che uno stia bene, che usufruisce di tutto quello che ha, anziché le agevolazioni che ti danno l'Invalidi. Meglio non avrebbe mai queste cose. Va bene, avanti, tratta lì. Le panna andate di cartellino, perché devi essere invalido al 100% e non devi deambulare. Capito? E non si riparte, neanche si passa anche la visita. Ho fatto un cartellino. Non è così. Allora, Marco, ce l'hai cartellino? Al 75% di validità e ha ambulato perché cammina. E il cartellino ce l'avevo preso. Ancora no, che scetti? Da voi tu, vai a Firenze a Bonuri, ti vai a Firenze a Bonuri, di tu che qua non c'è di stare in mezzo alle persone per bene. È finita poco fa. Eia, no, io mi ero notato per andare in bagno, poi me ne sono dimenticato, dai, scusate per l'assenza, dai. Natali, ragione Gianni, perché mio fratello la stessa patologia di Gianni, in più però, quando lo Scolabus l'aveva investito lì via Marai, mio fratello c'ha tutto il collo storto, c'è una cicatrice sotto l'occhio, ha rischiato di rimanere cieco, e tutto va ridotto, tutto mezzo guasto, ce l'ha il cartellino, attento, c'è l'invalidità del 100% però. Anche a me lo danno, io non è che sia sano, mi. La fiscia per gli invalidi che ti diano il cartellino per posteggiare, io sapevo per quelli che non potevano deambulare bene e servono anche la macchina modificata. No, però c'è la macchina sua per il cartellino, usufruisce delle cose che deve usufruire, beh. Ciao Mazzuri. Va bene, va bene. Come vedi, io se sono a casa faccio il radio, se non sono a casa, Marco, purtroppo anch'io impegni tantissimi. E adesso appena arriva il tempo buono, se lo assente per un bel po' pure, perché abbiamo finito un po' di cose e poi niente. Una volta tutto finito, allora già riprendo nuovamente a trasmettere da qua. O da qua o da là, intanto l'antenna la monto anche là. Ah, a proposito di tempo, Pasqua e Pasquetta come fa? Com'è il tempo? Ah, Pasquetta ha dato bello, sicuramente. Il tempo brutto è oggi, quindi venerdì, che non è così brutto, io sono uscito, non c'è assolutamente freddo. Ha smesso anche quella pioggerellina, è già tutto asciutto. Domani dovrebbe essere un po' più brutto e poi riprende. Domenica e lunedì bello. Addirittura ci sono delle statistiche su internet, c'è scritto praticamente temperature estive. Caspita, certo, chi la fa la Pasquetta? Noi, come sempre, fine mese, fine degli sghè. Ma io un giretto me lo posso fare così, un caffè me lo posso pigliare, verso Platamona, non le solite, così vedo tutti quei bidinculi in pineta, mangiando e bevendo. E tanto che ci si diverte, quindi... Eia! Piantano, portano ciocca, chissà, facciamo una caffè a Santarese, e ci si diverte, non sono di infatti, grazie loro dico... vabbè, pazienza, vabbè, io già non siamo, cosa mi ti porto in pinetta? Mamma malapena può camminare, mi sta diventando una cosa veramente problematica e non fa nulla, non si piglia né cose invalidi, nulla, non fa nulla, non vuol fare nulla, non ha voglia, anzi non ha voglia di far nulla. E vabbè, uno se ne rimane così, allora non si vuole operare, non vuole nulla, vabbè. E Gappinetta, Marco, ma non l'hai visto? Attento già Gigi, non hai visto già c'è scritto dal primo pettine sino al settimo? Non l'hai letto? Divieto di sosta, destra e sinistra, non permanente, e poi ci sono i cartelli, divieto di campeggio e picnic. Sì, perché sono dei pezzi di merda, capito? Sindaco di Sorcio soprattutto, perché quella è zona di Sorcio, hanno rotto le balle con questi divieti però, è vietato fare tutto, campeggiare, picnic, non puoi metterti una tovaglietta a mangiare lì, hanno rotto le balle a questa storia dell'ambiente, capito, della tutela dell'ambiente, sono dei grandi stronzi. Sindaci, assessori e tutti quei boioni che fanno queste cose qua. Vietato a parcheggiare, sì, tutto vietato è. Ma non lo vedi in che condizioni siamo? Adesso cazzo lo dico al mio chiesto e ti faccio fermare, cazzo. Quello qua si fa nuovo nuovo. Lo conosco anche io. E ma c'è, due mani pisanti burro, Sì, 2 metri anche. E adesso cinque, mi dice cinque ma capire. Chi è Antonio Checcia? È un sovrintendente, maresciallo dei vigili urbani sorci. È 2 metri per 1,50, testa pelata, sembra Kojak. Vabbè, al posto suo deve stare. No, tu non li puoi parlare male, se no... Adesso lo dico Antonio, Iulia, come ti prendo se tu uscito? Dove va andare in pensione quest'anno? Non lo so quando, sei già andato forse prima dell'estate, Natali. Si trovavamo quasi tutti i giorni lì alla Tornara, sullo scorrimento veloce per Castelsardo lì. Capito? La mattina passava a prendere il caffè, e dopo parava laggiù, so pigliarsi i sigaretti, la macchina in servizio, in divisa, c'è che ha problemi, che di tenuta. Come andato te, tu associ? Sì, Marco, capisco che è una vergogna, perché non si può più parcheggiare, c'è scritto divieto di sosta permanente, capito? Lato destro e lato sinistro, e ci sono i cartelli divieto di campeggio e picnic, c'è proprio scritto, quindi non si può fermare nessuno, se ti vedono i magnenti dritto, tutti accampati, ti mandano via, è una vergogna, lo so, il torare di Platamono oramai è una cosa che non viene bene a dirlo, capito? Io guarda, non ci viene nessuno a rompere le scarpe, io sono a casa, in campagna, siamo una ventina, già tutto pronto, attrezzatissimo, tavolo lunghissimo, grande, bello, allungabile, aggiungato una vacca, 2 metri lunga, allungabile anche 2 metri, tutta da modo conveniente, tutta in coso, in come si chiama, rover, diciamo no, non è massiccio ma comunque già va bene. Ma vabbè, le sedie erano 6 e io ne ho fatto aggiungere altre 6. Capito? Così non c'è problema, nessuno si arrecchia a Gadria. E se no figli di Tauroni in casa e ti fai due panche quando c'hai 5 minuti liberi o clà. E problemi di sedie non ce n'è. Sì, quando è pronta la veranda, quella è già predisposta. Quella è già predisposta. Però per il momento già si sta dentro, capito? No problem, tutto ok. Va bene, dai signori, sono le 8:15, io vi saluto, adesso non ne più. Stanotte c'è pizza, quindi stanno già infornando qua, non vado dall'altra parte, facciamo l'aperitivo e poi iniziamo a mangiare, spiego tutto e ci sentiamo se Dio vuole domani, dai. Ciao Gianni, di nuovo salutoni, ciao a Natalino, Marco, chiunque fosse in ascolto sul canale 10, per me URT. A frappè, vai già. Ciao Claudio, non c'è il motivo, non c'è il motivo, io volevo fare un intervento, e da una parte hanno ragione, non fa fare dei maiali che aspettano la montetta di altri perché ci stava io di sua volta che ho fatto la posizione di tutto quanto e ho sempre pensato di aspettare la posizione si fa così la persona in civili quelli sono animali lo so sì quello è vero ma allora, io mi chiedo, quest'estate quando arriveranno i turisti, no? Hai visto lo scempio? Hanno fatto scempio anche tra il villaggio grigio e il rosso, quella rotatoria griva al mare, ci sono 2 bar, una a destra e una a sinistra, hanno chiuso anche lì l'accesso, hanno messo blocchi di cemento, cose. No, hanno vietato lo stesso sulla lettura, come ha detto Claudio, l'accesso, cioè non l'accesso, la parcheggio a destra, tutto, stanno vietando tutto, ma i turisti vengono qua e se ne vanno. E poi quando le attività saranno in ginocchio chi è che ripaga? Certo non quei boioni lì che ci sono al comune, no, di Sorcio e non solo, ma anche di Sassari. Ma io dico che comunque anche questo partito a pagamento non si può erano, si può lasciare il turismo. E questo partito a pagamento può essere tutto la mattina fuori, si può mangiare. già esattamente? Ai 20, nei 20, si fanno pagare i parcheggi, ma dal terzo si va a arrivare fino al 10, ma c'è, si fanno pagare, non si fanno pagare i parcheggi. Ehi, a quello... Sì, ma tu l'hai visto già, per curiosità, lo scempio del quinto pettine, la quinta discesa a mare. Hanno ridotto il parcheggio a un minimo, c'è una specie di mini rotatoria, tutto il resto, non lo so, sì, hanno fatto questo ponte tutto a zig zag, va a destra, poi a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, poi hanno fatto questi stazzi per le pecore con le canne, l'hai visto? L'hanno combinato. Sì, io l'ho allibito, c'era il bar Delfino, tutto dove arrivavi, parcheggiavi fino quasi vicino al bar, tutto piazza del lato, c'era gente, i turisti vanno lì in estate a passeggiare. Cazzo, voglio vedere quest'estate, vedrai i commenti che metteranno su internet, dice impossibile parcheggiare, tutto vietato, il poco che c'è a pagamento, tutto passeggiate, vialetti, boh, vabbè, contenti loro. Lei ha primo piccolo strade, adesso vicino a casa, che hanno fatto parlare un tanto, perché mi scendi in centro, perché hanno preso la consiglia, tutto, per riuscire da via Bono o per andare tra le via Bono? La residenza di Cardone la scelta più vicina, perché c'era il motore da una parte, la strada dall'altra, insomma, sostanzialmente hanno fatto la nostra via, la nostra via Bono. Guarda, io sto temendo che sai il viale che arriva dritto alla rotonda, no? La gente parcheggia lato sinistro, io ho paura che si inventeranno qualcosa, o lo faranno a pagamento o metteranno divieto di sosta di fermata, e quindi la gente addio, non va più a Platamona. Guarda, me la sto aspettando da un momento all'altro che facciano una porcheria del genere. Se fosse a pagamento, vabbè, pazienza, cosa ti dica. Ma se fanno il divieto anche lì, non lo so cosa c'hanno in testa assessori, cosa... Vabbè. Colpa di Natalino, mi doveva fare l'assessore Natalino, mi... No, stavo a andarci. No, che se facevo l'assessore io tutto libero... Anche il barbecue mi facevo fare, l'importante è stare attenti al fuoco. Buonasera a tutti, vai, vi stavo ascoltando. Ciao Marco, ciao Gianni, ciao Matteo. Ma sono andati, io non devo essere quei quattro imbecilli del comune sotto, capito? Ero con un mio amico, perché siete fatti ridere i polli, capito? La cosa più bella è andarci, senza fare polemiche, basta andarci, capito? Io andavo lì nei baretti, lì vicino alla Marina, capito? Ma non c'è più, non c'è più passato, io non ci passo più, capito? Tra l'altro tu e il tuo sindaco. Ma sbaglio, il sindaco di Sorso è abbastanza giovane. È un mezzo manco, è un mezzo manco. Oh, vabbè. Mamma mia. Cioè, ma io non capisco il quinto pettine, tutti questi piccoli stazzi fatti con le canne, tanti riquadri fatti con le canne, e poi non puoi accedere perché non ha apertura, capito, per far giocare i bambini, no, non so cosa, bastava fare poi un pontile dritto che arrivava dal parcheggio, sai, per far accedere gli invalidi, ha fatto questo ponte di legno tutto a zig zag, Non lo so. Io ero allibito, non avevo parole. Hanno ridotto il parcheggio a pochissime macchine, c'erano 8-10 macchine seppure. Tutto il resto è divieto. Vabbè. Ciao Fabio. Ciao. Ascolta, dopo il primo anno che hanno messo i. Che hanno messo i parcheggi a Parlamento, dopo il primo anno che hanno fatto la tariffa. Se le residenze ha tolto 50 centesimi tutto il giorno. Se non le residenze è stato si veniva a rubare tutto il giorno 6 euro. Capito? Ci davano tutte le tagliandine in comune, no? Da mettere sulla macchina. Un giorno al bar della torretta ce l'ho l'assessore, io ero con gli amici avvocati e ho detto ma cosa è questa sua guarda, di cazzo che avete fatto? Ma voi siete tutti a denunciare, io chiedo un'esposta in procura per questa cazzata. Ma allora che belle, cazzo che ho detto, se sei bianco 1, se sei nero 4. Ma se si va bene, va. E gli ha fatto un amico avvocato, tu mandami la multa a casa, tu vuoi dire se ti pago i soldi che mi stai chiedendo, imbecille. Bisogna vedere se è anche legale quello che hanno fatto. Se non c'è da denunciarli alla Procura della Repubblica, a questi qui, perché non so se sia tanto legale, perché la spiaggia è vicina. Capito? E questi abbarramenti, penso che non li vuoi chiami buoni, non è roba privata. A parte io ho detto a quell'assessore, ma scusate una cosa, e se il sindaco di Sassi invece fa il contrario, e vi fa il contrario, diceva a tutti quelli che sono residenti a Sassi, ovviamente a Sassi pagate 5 euro a ora, eh? Solo che voi dovete venire a Sassi a lavorare in ospedale, alle scuole o qua, a noi vi viene giusto, non ce ne frega un cazzo. Infatti, voi davate un bagaglio, un barchetto, 5 euro a ora, a dire si ricompensa. Hai chiuso 5 macchine? No, già, tutti quelli che lavorano in ospedale non fagli pagare 5 euro ora, a dire, ma se tutti i macchini, visto lei cosa vuol dire, beh, l'acqua della billetera. È già so poco invece di trovare, cioè, la partita che hai compreso, spiegati i tuoi cicchi. Allora, chi si vuole su manco qua superato, che è la regione. Allora, visto che gli ha stato preparando bene la sorpresa per la casa abusiva, ed è convinto, no? Oh, Iulia, quello che gli ha fatto le foto, attacca a lui, voleva farlo a lui quando finisce tutto quanto, capito? Un gatto delle intercettazioni che gliela faceva pagare dopo che finiva, pagando con l'amico. Quando è finito tutto, quello lì, oh, razza barbarecina, lo fa, i capelli gli fa ricrescere. Non è poco, ma si scuro, ma c'è un video a Ballagiola. Quindi anche tu stai chiudendo la tariffa, quindi buona cena, ci sentiamo, va, stai bene. Ciao Gianni, ciao Natalino. Bravo, mi è andato di traverso a me. Ciao Gianni, ciao Natalino, sì, ho tutto o niente. Ma non riesco anche a parlare, Natalino. Oh Fabrizio, pensa che io sto pranzando adesso. Eia, capito Marco la schifetta che hanno fatto in quel caso di cose, invece di fare tutti i punti di ristoro, entrare e fare, in tutto quel caso di chiesa abbandonata, fanno ridere, tu pensi in Umbria, ho fatto io un po' di tempo fa, c'è una parte vicino a Gubbio, che ci sono, dove immaginarsi tutta la, dalla torretta fino a arrivare a Marrita, no, come noi, tutta la, i tre volte più lunga quella strada, tutto finito, a destra e a sinistra, tu pensa, è tutto campeggi a pagamento, li butto quelli sono campeggi veri, capito, uno attaccato all'altro, ma la cosa fra il diavolo, ma lì ci sono quattro macchine. Neia. Vabbè, comunque già è vero che anche il quarto pettine lo stesso hanno chiuso, proprio la rotatoria hanno chiuso, capito? Non lo so perché. Vabbè, lo stesso tra il villaggio rosso e il villaggio grigio, dove c'era l'ex leader della polizia, lì facevi quella rotatoria, c'aveva il mare davanti, e c'erano due bar, una a sinistra e una a destra, c'è tuttora, però hanno chiuso proprio la rotatoria, non lo so perché. E vabbè, già ne riparleremo. Già, io adesso mangio, poi già sentiremo un altro giorno, dai, anche domani. E allora, vado Marco, là, io vado a mangiare, adesso lo so messo, e ci sentiamo là, così mangiamo tranquilli. Stai bene Marco, mi ha fatto piacere sentirti, ci sentiamo alle prossime, dai, adesso già rientrerò più frequentemente. Ok, ci sentiamo Marco. Eia, ciao ciao, buona, buon tutto, buona cena, ci sentiamo. Eia, eia, altrettanto, è forza Benito. Mentre sia lodato. E allora, è veramente sia lodato. Ci puoi stare visto, ma non tutto, no, almeno la metà, ne vedi che è decorrente.